Non era mai capitato di avere la possibilità di ascoltare in tempo reale un interrogatorio divulgato fuori da ogni regola prima ancora del rinvio a giudizio di qualunque decisione della magistratura. Ci siamo chiesti cosa farne, se mettere sul sito web, sicuri di fare un record di contatti, l'audio di questi interrogatori. Abbiamo deciso di no e abbiamo avuto conferma che si vuole solleticare la morbosità poche ore dopo, quando una trasmissione televisiva per famiglie, pagata col canone, in orario pomeridiano, ha cominciato a mandare in onda frammenti di audio accompagnandoli con un dibattito osceno e surreale. Ma allora dov'è il problema? Chiede Calabresi. Credo che esista una sostanziale differenza tra riportare un fatto, raccontarlo, o invece gettarlo in faccia a chi ascolta senza alcuna mediazione. È in quella differenza che è nato il giornalismo, che ha trovato un senso e una ragione di esistere. Qui da noi, conclude Calabresi, è saltato tutto e così si trovano disponibili le voci dei presunti assassini mentre vengono interrogati, come le intercettazioni telefoniche, un momento dopo essere state registrate. Il rispetto del lenzuolo bianco, Mario Calabresi, con lui concludiamo la rassegna stampa, il GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, protagonista della nostra intervista, e lo saluto, è l'eurodeputato e presidente del movimento Io Amo l'Italia, è l'onorevole Magdi Cristiano Allam. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi tutti. Senta, le chiedo, Angela Merkel in Germania dice che l'Europa multiculturale è fallita, lei è d'accordo? È fallito il multiculturalismo, cioè l'illusione di poter governare la pluralità di persone che provengono da paesi diversi, che hanno culture e religioni diverse, senza un comune collante valoriale e identitario. Ma le chiedo anche, l'Europa secondo lei è cristiana o è anche cristiana? La verità storica delle nostre radici giudaico-cristiane è un dato di fatto. È una realtà storica che ha saputo assimilare l'eredità del pensiero greco e romano e non a caso, solo in Europa e non altrove nel mondo, ha saputo esprimere una civiltà che è laica e liberale. Nei giorni scorsi avrà seguito sicuramente questo sinodo sul Medio Oriente che ha fatto molto discutere, nel quale un vescovo libanese per esempio ha detto: nel Corano si ordina di imporre la religione con la spada e nel Corano si dà ai musulmani il diritto di uccidere i cristiani con la guerra santa. Secondo lei questo aiuta il dialogo? No, questo intanto è una verità. Noi dobbiamo riscoprire la dimensione della verità e riappropriarci del nostro diritto a usare la ragione, i parametri valutativi e critici. Quindi prendiamo atto innanzitutto del fatto che questa è una verità. In secondo luogo, noi dobbiamo distinguere tra la dimensione religiosa e la dimensione delle persone. Dobbiamo cioè capire che l'Islam è fisiologicamente diverso e incompatibile con il rispetto dei diritti fondamentali della persona. I musulmani come persone sono dei fratelli che noi dobbiamo amare sulla base della condivisione di valori non negoziabili e del rispetto di quelle regole che sono alla base della comune civiltà dell'uomo. Per esempio i musulmani o comunque gli stranieri a Milano hanno messo in campo l'ipotesi di fare una lista civica per presentarsi alle comunali. Lei la vede come un'esperienza di possibile integrazione e di possibile ingresso anche nella vita politica delle persone straniere d'Italia oppure la vede negativamente? Ma se ci rifacciamo a quanto detto poc'anzi a proposito della Merkel, noi comprendiamo che una lista del genere è espressione di una realtà dove noi ci presentiamo come se fossimo una landa deserta e loro ci percepiscono come se noi fossimo una terra di conquista. Questo avviene perché in Italia non esiste una strategia di integrazione fondata sulla base di regole che sostanziando diritti e doveri garantiscono ma al tempo stesso vincolano tutti indistintamente. Ma lei non crede che ci sia una scarsa accettazione a volte dello straniero e quindi questa potrebbe essere una risposta in qualche modo a questa scarsa integrazione, a scarsa accettazione? Io sono contrario a qualsiasi forma di discriminazione o di razzismo. Io non voglio discriminare nessuno, ma è chiaro che noi potremo convivere costruttivamente e pacificamente solo in presenza di regole che valgano indistintamente per tutti, per gli italiani e per gli stranieri. Lei si candida a Bologna, comunque il suo movimento si candida a Bologna, Io amo l'Italia, l'abbiamo un po' vista, se mi permette, scomparire politicamente, oppure lei dice si sta muovendo come? No, allora noi siamo un movimento nazionale, Io amo l'Italia, che è presente ovunque in Italia, non solo a Bologna. Noi ci presenteremo anche a Torino, anche a Milano e anche a Napoli, per limitarsi ai grandi comuni. Io sono attivamente presente, come lei ha ricordato, al Parlamento europeo, ma sono anche presente con il movimento in Italia, ovunque nel territorio nazionale dove ci saranno delle elezioni. Un'ultima cosa riguardo alle elezioni, eventuali elezioni anticipate, visto come si colloca lei nel centrodestra, nel centrosinistra? È stato eletto credo nell'UDC nel Parlamento europeo, ma ora ha fondato appunto questo movimento Io amo l'Italia. Come si colloca lei nel panorama nazionale? Allora, io non sono mai stato dell'UDC e ho partecipato da indipendente come capolista nel Nord-Ovest su richiesta di Pier Ferdinando Casini. Noi oggi prendiamo atto del fatto che le classificazioni tradizionali sinistra, centro, destra sono decadute. Quello che oggi noi vediamo è un terreno comune degradato dove la competizione è per l'accaparramento di poltrone. Noi riteniamo che il vero discrimine sia la fede nei valori innunziabili oppure l'arbitrio del relativismo. Noi saremo con tutti gli italiani per bene di buona volontà che credono innanzitutto nell'amore per l'Italia, in secondo luogo nella presenza di valori non negoziabili e in terzo luogo che aspirano alla certezza delle regole. La ringrazio onorevole Allam, alla fine magari qualche parola si è persa nel cellulare, ma insomma è stata chiara la sua posizione. Grazie ovviamente, buona giornata. Magdi Cristiano Allam, voglio ricordare, presidente di Io amo l'Italia. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo. Nel nostro sondaggio oggi parliamo di questa iniziativa dell'Europarlamento che vuole, in un percorso che arriverà nei prossimi anni, dare anche ai papà l'obbligatorietà del congedo parentale. Attenzione, congedo parentale obbligatorio, per la verità solo 15 giorni, si discute di un periodo molto, molto breve. Ma voi che ne pensate? Anche i papà dovrebbero stare per un periodo obbligatoriamente a casa una volta che nasce un figlio? Questa è la domanda che vi poniamo. Dovete votare su radio24.it, se volete chiamarci invece 800 24 00 24, siamo qui tra pochissimo. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:34 minuti. Nel nostro sondaggio di oggi parliamo di genitori, di congedi parentali, forse in arrivo in futuro anche per i papà. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Insomma, qualcuno l'ha visto profilare così in un immediato futuro, 2 settimane a casa col figlio neonato, anche per i papà, senza dover chiedere permessi speciali, con lo stipendio garantito al 100%, insomma il congedo parentale obbligatorio anche per i papà. È una proposta del Parlamento europeo, ora dovrà fare tutto il suo percorso, una proposta complessa che coinvolge ovviamente anche le mamme, il congedo di maternità, l'aumento a 20 settimane un po' in tutta Europa, in Italia già c'è un aumento anche della retribuzione al 100%, ma insomma quello che ci ha incuriosito e sul quale vi vogliamo chiedere il parere a voi ascoltatori è il congedo obbligatorio anche per i papà. Che ne pensate? Sareste favorevoli? Dovete votare su radio24.it, per ora lo fate e devo dire che la maggioranza, il 75%, dice sì, siamo favorevoli. Ne vogliamo parlare con 2 ospiti, l'onorevole eurodeputata del Popolo della Libertà Alicia Ronzulli. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. E voglio salutare la professoressa Chiara Saraceno, sociologa, che è molto esperta di diritto in famiglia. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Partirei dall'onorevole Ronzulli, che forse insomma molti l'hanno vista anche immortalata, no? In una foto che è diventata già celebre. Onorevole Ronzulli, lei si è presentata con sua figlia Victoria, credo, non sbaglio. Victoria, nome italianissimo, però probabilmente la stampa estera. Victoria, è stato messo Victoria, sì, perché lei è eurodeputata, invece Victoria. Si è presentata con la bimba immortalata nell'aula di Strasburgo. Dicono che questo abbia intenerito anche i cuori di tutti nel votare questa cosa. Credo proprio di no, ma il discorso sarà più complesso. Ma lei come l'ha presa? È soddisfatta? Beh, io sono assolutamente soddisfatta. Volevo però fare una precisazione. Il congedo di paternità obbligatorio di 2 settimane retribuito non è al 100%. Questo deve essere un po' chiaro, perché ho letto tante cose sulla stampa in questi giorni. Purtroppo è passato soltanto l'emendamento della retribuzione, non l'emendamento del quanto. Quindi sarà ogni Stato membro dovrà decidere quanto pagare il congedo di paternità. In Italia oggi è al 30%, credo. Ecco, e tra l'altro non è neanche obbligatorio, cioè uno lo può chiedere, ma al 30% di stipendio. Questo non sì, incentiva e poi lo molto. Lo può chiedere in sostituzione di quello della mamma al momento. Certo. Quindi se lo chiede uno, non lo chiede l'altro. Mentre in questo caso le 2 settimane sono in più, sono supplementari, certo, a quello del congedo della mamma. E quando sui giornali qualcuno, per esempio Paolo Di Stefano sul Corriere, ha parlato di forza simbolica delle quote azzurre, anch'io sono d'accordo sul fatto che 15 giorni siano sinceramente pochissimi. Chi ha avuto l'esperienza di essere papà, io 2 volte, insomma, fare 15 giorni si impara pochissimo, no? Però la forza simbolica almeno c'è. Si può parlare, secondo lei, addirittura di quote azzurre da questo punto di vista di genitorialità, onorevole? Ma io sono dell'idea che, per carità, il concetto di obbligatorietà non piace a nessuno. Però bisogna partire da questo per poi arrivare a qualcosa di facoltativo, evidentemente. Dobbiamo ricordarci che anche il congedo di maternità, cioè i 3 mesi successivi alla nascita per la mamma, sono obbligatori. L'astensione dal lavoro per la mamma è obbligatoria. È, in questo caso, anche per i papà, una tutela che va nella direzione del bambino. Cioè si cerca di tutelare il bambino, lasciando a casa in modo obbligatorio sia la mamma che il papà. Questo per non avere più quel concetto individuale di madre o di padre, ma per tornare al concetto di famiglia, di genitorialità. Vediamo se, professoressa Saraceno, questo secondo lei è la razza, insomma, di questo provvedimento, al di là di poi vedremo come verrà recepito, se verrà recepito, se qualcuno dice i vari tremonti dei vari paesi europei diranno anche quanto costa questo alle casse dello Stato, perché anche questo è un tema economico da affrontare. Ma le chiedo intanto un parere sociale, se vuole, sull'importanza sociale di questo provvedimento. Lei la vede positivamente, professoressa? Innanzitutto bisogna fare un po' di chiarezza, perché ho sentito delle cose un po' confuse. Non è il congedo parentale, ma è il congedo di paternità collegato a quello di maternità, che sono 2 cose distinte, perché in Italia, come in molti altri paesi, abbiamo prima il congedo di maternità, che riguarda la madre, perché è lei che partorisce. Adesso vorrei ricordare che i 3 mesi dopo il parto, oltre che i 2 o l'1 a seconda di come uno lo prende, mese prima, riguardano il fatto che la donna, la madre, prima è gravida e poi partorisce. Non è esattamente come il padre, per chiarire, ed è lei che allatta. Il padre normalmente non allatta, al massimo dal biberon, per cui ha una sua razionalità il fatto che ci sia un congedo obbligatorio per la madre, perché è anche di protezione per la salute della madre, oltre che del bambino, che appunto di solito viene allattato. In molti paesi esiste anche la possibilità per i padri di prendere qualche giorno, di solito solo qualche giorno, massimo 2 settimane, di congedo durante, cioè in contestualmente al congedo di maternità. Altra cosa è il congedo parentale, che già in Italia gli uomini possono prendere, non lo prendono quasi mai, ma così ma non lo prendono quasi mai, perché? Perché è pagato al 30% perché, o perché anche per le madri è pagato al 30%? Beh, no, all'inizio no, poi dopo no, è questo che non bisogna, che bisogna distinguere. Il congedo di maternità è una cosa ed è pagato in Italia all'80%. Sì, e poi la cosiddetta aspettativa, ecco, viene pagata. Dopodiché c'è il congedo genitoriale, sì, che è pagato sia per le madri che per i padri, se lo prendono al 30%. Troppo poco, che è uno dei motivi per cui molti, quasi nessun padre lo prende e anche molte madri non se lo possono permettere. Però vorrei distinguere proprio le due fattispecie. A me va benissimo, sono molto contenta che ai padri venga data la possibilità più o meno obbligatoria di stare qualche giorno, anche 2 settimane a casa quando nasce il bambino, per goderselo, per aiutare la madre, se poi c'è un altro figlio è molto importante che ci sia qualcuno che dia una mano. Ma la grande differenza è la possibilità che i padri davvero si assumano responsabilità di cura analogamente a quando fa la madre, avviene dopo, cioè alla fine del congedo di maternità, quando la madre potrebbe tornare a lavorare. Sì, cioè, però professoressa, è chiaro che le situazioni sono ovviamente diverse, come lei ci ha detto, anche biologicamente diverse, insomma, nella nascita di un figlio, però la disparità c'è proprio in questo, voglio dire, si sta discutendo se introdurre 15 giorni obbligatori per il padre, mentre ovviamente la madre ha, adesso cosa sono i mesi, non so se 5, 6, adesso non ricordo bene, in Italia per quel che riguarda. Quindi c'è una disparità anche su questo, insomma. Al momento il genitore, il padre, non ha nulla, diciamo, di obbligatorio, di garantito. Non so se sarei d'accordo sull'obbligatorietà, ma comunque mi va benissimo che venga introdotta la possibilità per il padre di stare a casa appena nasce il bambino. Quello che sto dicendo è che se l'obiettivo è quello invece di riequilibrare, sì, la divisione del lavoro di cura tra padri e madri, bisogna molto di più investire sul fatto che i padri prendano il congedo di genitoriale, perché è quello lì che fa la differenza. Aumentare per esempio quella quota del 30%, che ne so, aumentarla economicamente. Aumentare, ma anche per le madri, mica solo per i padri. Certo, no, questo sì. Sentiamo professoressa, mi lasci sentire cosa pensano un paio di ascoltatori, poi dopo andiamo al traffico, voglio tornare anche l'onorevole Ronzulli. Cristina da Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Buongiorno. Niente, io sono d'accordo con l'astensione del papà, insomma, dal lavoro in quel momento, perché trovo sia un periodo molto delicato per le donne e soprattutto si darebbe più umanità a quel momento, nel senso che io lavoro nel ricco. Cioè lei vorrebbe che per legge sì, anche i padri fossero obbligati come le madri a stare a casa un determinato periodo con lo stipendio garantito. Certo, si darebbe più umanità anche a quel momento di condivisione di gioia e magari si farebbero anche più bambini. Mm. E poi trovo sia giusto che il papà venga coinvolto in questo momento, anche perché non servirebbe magari del tutto, per carità, però magari potrebbe capire di più della mamma sottoposta a forte stress in quel momento e magari evitare vivere quel momento più, insomma, come un momento di tutti, insomma, non solo della madre, del figlio, ma anche del padre, essere coinvolto pienamente. Grazie Cristina. Voglio andare da Milano da Federico, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io non sono d'accordo sull'obbligatorietà, perché se un padre non capisce da solo che la nascita di un figlio è il momento per prendersi una settimana, 15 giorni, un mese di ferie, allora invece che obbligarlo, che poi magari obbligato se ne va al bar con gli amici o a giocare a calcetto con loro, sarebbe meglio investire quei soldi in un opuscoletto dove io per esempio scriverei: guarda, forse sei ancora sotto shock per la vista di quello sgorbio che è uscito dalla pancia di tua moglie, però hai cominciato il progetto più importante della tua esistenza, quindi è meglio che tu ti concentri su questo e ne faccia la tua priorità. Però Federico, il padre che va a giocare a calcetto appena nato il figlio, insomma, caso disperato, che possiamo fare? Irrecuperabile, Federico, non c'è legge o non legge che non tenga in quel caso, no? Sta parlando un imbecille che due ore dopo la nascita della prima figlia era già in fiera a un'esposizione per lavorare nel suo stand, no? Quindi, e forse per lei la legge forse sarebbe stata, almeno la obbligava a stare lontano dal lavoro, forse in questo caso sarebbe stata utile. Vogliamo andare a sentire le informazioni sul traffico, poi voglio tornare dall'onorevole Ronzulli a capire l'aspetto economico che credo sia stato dibattuto nell'Europarlamento, cioè se fosse recepita questa cosa, chiaramente, e molti stati già lo fanno notare, ci sarebbe anche un salasso economico a cui fare i conti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Detto che il 74% per ora dice siamo favorevoli a un congedo obbligatorio anche per i papà, onorevole Ronzulli, l'aspetto economico è stato trattato ovviamente dall'Europarlamento. Ci sono paesi, sì, pare la Germania, la Francia, già sulle barricate, anche l'Inghilterra, arrabbiati per questa cosa che costerebbe agli stati. Indubbiamente costerebbe. Intanto volevo chiarire questo: la direttiva al momento è stata approvata in prima lettura dal Parlamento europeo e andrà in sede di Consiglio, cioè dove 27 governi si incontreranno per decidere se licenziare o meno questa direttiva. Sicuramente lo snodo economico è quello più importante, però credo che se i figli sono una ricchezza sociale, bisogna evidentemente vedere questo congedo come un investimento sulle future generazioni. Ecco, quindi cioè spendere dei soldi, investire dei soldi in quello, però è un qualcosa che conviene anche per il welfare sociale, per sì, creare. Sì, investire più sulla politica della famiglia, politica di assistenza, però a lungo respiro, magari dilazionando un po'. Però questo pensiero va sicuramente fatto. Senta, sa che qualcuno, quando ha visto la foto appunto che l'ha immortala con sua figlia all'Europarlamento di Strasburgo, qualcuno l'ha anche criticata, a dire ma come, l'immagine insomma della classica mamma che non si vuole mai separare neanche un giorno dal posto di lavoro, della super mamma che vuole essere sempre efficiente, che vedi è sempre in prima fila anche nel momento in cui potrebbe invece dedicarsi pienamente a un qualcosa di straordinario che è appena accaduto. Sì, io l'ho detto tutti, devo dire, lo ripeto anche oggi volentieri, la mia è stata una scelta assolutamente personale e insindacabile, quindi io ho potuto anche, perché mi sono sentita subito bene, perché Vittoria stava bene, rientrare al lavoro anche grazie a qualche mezzo strumento che molte mamme non hanno, e quindi ho potuto allestire una nursery in Parlamento, ho qualcuno che magari quando Vittoria non sta bene può tenerla e io posso andare in commissione, ma la mia è una situazione assolutamente particolare e mi rendo conto anche privilegiata. Il simbolo di portare Vittoria lì voleva significare proprio questo: diamo una mano a chi questi strumenti e mezzi non ce li ha, perché poter stare col proprio bambino anche dopo non deve diventare, cioè deve poter essere una scelta. La mamma deve poter scegliere se rientrare o se godersi questo momento un po' di più rispetto a quello che è già la legge da noi che tutela nei 3 mesi successivi o nei 4, a seconda di quello che si sceglie prima, poter stare a casa, certo, col bambino. Volevo solo sottolineare una cosa rispetto all'intervento di quel signore che ha chiamato da Milano sull'obbligatorietà. Sì. E l'ho detto prima, sicuramente l'obbligatorietà può non piacere, anche a me inizialmente non piaceva, ma va a tutelare chi magari ha voglia di prendere questo congedo e non può farlo perché l'azienda non lo permette. Quindi lo screanzato che va a giocare a calcetto, come ha detto lei, è evidentemente un caso particolare, ma c'è anche chi lo vuol prendere e magari deve magari prendere non può, serie, sì, ma... e magari non può, ma certo, ma quindi uno... l'obbligatorietà è in questo senso uno... che va letta. Uno che è obbligato a stare a casa e che vuole andare a giocare a calcetto dopo un'ora ci va a giocare comunque, ma insomma io dico il caso irrecuperabile in maniera un po' bonaria. Voglio sentire Corrado da Torino, che ne pensa, Corrado? Buongiorno, io mi chiamo Corrado e intanto premetto che quando è nata mia figlia io ho goduto delle 2 settimane appunto di paternità, di congedo parentale, perché mia moglie doveva rientrare al lavoro, quindi mi sono fatto, in realtà è stato un mesetto perché ci ho aggiunto le ferie. Cioè nel senso ho goduto, le ha prese sì, al 30%, al 30% ovviamente di stipendio. E appunto al 30%, quindi mi sono dato da fare anch'io perché ci tenevo. Volevo dire che secondo me io sono completamente contrario all'obbligatorietà, come diceva l'onorevole, anche perché è un po' contraddittorio con quello che ha detto lei, perché dice la madre deve poter scegliere, ma anche il papà deve avere la libertà di scegliere, perché comunque non è che una legge... No, però attenzione, si parla dell'obbligatorietà, come sa, la madre quando nasce il figlio è obbligata a stare a casa, no? Un mese prima e per successivi 4-5 mesi. Si parla di questo, cioè obbligatorietà nel momento in cui nasce un bambino, anche il padre stia a casa. Ecco, Corrado, non questo, non poi la scelta di tornare a lavorare oppure prendersi l'aspettativa, quello che si vuole, ma l'obbligatorietà nel momento in cui nasce il figlio, di stare a casa anche il padre. L'ho capito, però vede... Cioè la mamma è obbligata, per come ci ha spiegato la professoressa Saraceno, perché fa il figlio, e quindi è per la tutela della madre e poi perché è obbligata. Posso finire di fare il mio intervento? Sì. Dicevo che comunque, la sociologa ha spiegato molto bene, non è le prime settimane che il papà può fare quelle cose lì. Il papà, cioè, se si vuole favorire, si deve dare la possibilità, non l'obbligo. Poi sono molto stupito, io sono un elettore del PDL, che il PDL voti delle leggi di questo genere, perché è contro il principio della sussidiarietà. Non deve obbligare le persone a fare, deve dare la possibilità. Quindi vedrei molto meglio una legge che dice: papà, ti do la possibilità di fare questa cosa qui appena nasci tuo figlio, ma non ti obbligo. Perché il papà che va a giocare a calcetto andrà a giocare a calcetto. Ma no, ma questo sì, cioè lei vuole in realtà, io ho capito, come diceva la professoressa Saraceno, aumentare per esempio quel 30% per le madri o per i padri delle aspettative una volta che finisce il periodo di congedo obbligatorio, di portarlo, che ne so, al 70, 80, 90%, incentivare in questo modo, no, professoressa Saraceno, o sbaglio, incentivare in questo modo di poter scegliere se stare di più con i propri figli. Ma questo economicamente, voglio dire, come lo si concilia poi con i conti di uno Stato? Cioè le aziende, le imprese che possono dire di tenere una persona fuori magari un anno al 100% dello stipendio o all'80%? È possibile finire il mio intervento? Sì, sì, no, Corrado, voglio andare alla professoressa Saraceno perché sennò ha parlato abbastanza, Corrado. Professoressa. Allora, innanzitutto se i padri ne prendessero, cioè come in Italia c'è un monte di mesi che possono prendere i genitori, entrambi, cioè uno più uno, e se quelli che non prende l'uno può prenderli l'altro, quindi il problema è garantire uno spazio di tempo di cura per il bambino da dividersi tra i genitori. Quindi non è che ci sarebbe un anno per lui e un anno per lei, ma mettiamo un anno complessivamente che potrebbe essere condiviso con più agio se fosse pagato meglio. Ma tornando al problema del costo, ma anche delle eventuali due settimane per il padre al momento della nascita del bambino, almeno in Italia il costo è a carico dei contributi, tant'è vero che quel comparto lì è quello più inattivo dentro la previdenza complessivamente, perché si fanno pochi bambini e perché forse non tutti prendono tutto il congedo. Dipende quindi da paese a paese come è finanziato. Sì. In Germania è finanziato dalle tasse e quindi questo potrebbe essere un problema. Costo, e infatti la Germania. Però la Germania già adesso paga per il congedo genitoriale, quindi quello successivo alla maternità, paga il 67%, che è già una bella differenza, certo, rispetto al caso italiano. Certo. In ogni caso io qui mi devo fermare, il tema è molto interessante con anche tanti ascoltatori come immaginavo. Ringrazio l'onorevole Ronzulli e ringrazio la professoressa Chiara Saraceno. Come detto, il 75% dice per ora sì, favorevole a questo congedo obbligatorio anche per i papà. Staremo a vedere, grazie anche a Valeria Coffaro oggi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Squadra tutta nuova oggi. Dalla linea Oscar Giannino e ci troviamo domattina 7:20.